Raffaello, Ademo, Elisabetta. Presente. Bozzini, Emanuela. Presente. Calderon, Clelia e Leo. Presente. De Angelis, Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Ho deciso di aprire un canale su YouTube perché intendo confrontarmi con voi sulla scuola e sull'università. Voglio accogliere idee, progetti, proposte, anche critiche. Una cosa non farò mai, quella di difendere lo status quo o di arrendermi ai privilegi e agli sprechi. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare e lo dobbiamo fare insieme. L'avete sicuramente riconosciuta, è il ministro della pubblica istruzione Marastella Gelmini, che ha deciso, dopo tante polemiche sui suoi provvedimenti, dopo tante manifestazioni, di parlare direttamente a studenti, insegnanti e genitori, ma anche di fornire loro, che stanno spesso scendendo in piazza, una specie di piazza telematica. L'idea non è male, speriamo però che la Gelmini abbia la pazienza e anche il tempo di guardarsi le proposte che arriveranno. Noi monitoreremo. Nei prossimi 10 anni fra i 320.000 e i 340.000 insegnanti andranno in pensione. Un esodo questo mai registrato in precedenza. Un esodo che comporta opportunità e rischi, secondo uno studio della Fondazione Agnelli. Cominciamo dai rischi con il direttore della Fondazione, Andrea Gavosto. Ma il rischio principale che noi vediamo è che se il governo decidesse un blocco totale del turnover, quindi sostanzialmente di non rimpiazzare per nulla i 300.000 che presumibilmente usciranno nei prossimi anni, a quel punto rischiamo di creare un blocco generazionale nella scuola, vale a dire che coloro che sono, diciamo, in lista d'attesa oggi, sappiamo che ci sono 240.000 precari, diciamo supplenti in varie forme che aspettano di entrare, ma soprattutto, ed è la cosa che ci preoccupa di più, i giovani che vogliono intraprendere la professione di insegnante d'ora in poi, rischiano per almeno un decennio di non poter entrare nel mondo della scuola, e un salto generazionale di questo tipo sarebbe deleterio per la scuola come per qualunque altra organizzazione, perdere una generazione. Assolutamente sì, però questo momento offre anche delle opportunità, avete evidenziato anche delle opportunità. Diciamo l'opportunità nel senso che... Perché ci sono un po' di anomalie nella nostra classe insegnante come Italia rispetto agli altri paesi, e voi l'avete evidenziato molto bene nella ricerca. Assolutamente, correttamente. Nel senso che noi mettiamo in evidenza, come era peraltro un dato già parzialmente noto, il rapporto fra studenti e insegnanti in Italia sia nettamente più basso degli altri paesi, significa che ci sono molti più insegnanti in proporzione al numero di studenti degli altri paesi. E questa è un po' un'anomalia, certo. Ovviamente uno, come dire, di per sé il numero non vuol dire niente, nel senso che uno può ritenere che il numero di insegnanti che noi stimiamo essere ormai in Italia superiore al milione di persone può essere adeguato, o addirittura si può dire che è insufficiente. Diciamo, l'unica misura che abbiamo in questi casi è di confrontarci con gli altri paesi europei, e da questo confronto emerge come effettivamente in Italia ci siano più insegnanti che negli altri paesi. Che negli altri paesi, in rapporto con gli alunni. Peraltro l'altra anomalia è che nella maggior parte dei paesi il numero degli allievi per docente diminuisce man mano che sale l'ordine di scuola, invece da noi no. No, infatti questo ovviamente è legato alla... che è stato un tema di polemiche furibonde nelle scorse settimane, sì. La questione del maestro prevalente e dei tre maestri per due classi, che è il sistema attuale, che devo dire è abbastanza peculiare dell'Italia, non esiste in altri paesi europei. Ecco, senza entrare nella polemica politica, perché in questo momento naturalmente non ci interessa, come peraltro non interessa neanche voi, perché avete fatto una fotografia, e quindi a prescindere dalle polemiche e discussioni di questi giorni, però insomma gli insegnanti sono più di 1 milione, risulta che sono tanti rispetto agli altri paesi. Indiscutibilmente sono tanti per ragioni storiche. Diciamo che la cosa che più sorprende, in un certo senso, noi abbiamo fatto anche un'analisi storica, retrospettiva. Esatto, che è piuttosto interessante, infatti. Diciamo, il numero di insegnanti oggi in Italia è sostanzialmente ragguagliato a quello che era il numero di studenti, diciamo, negli anni sostanzialmente 70, vale a dire quando ogni anno circa 1 milione di nuovi allievi entrava nel mondo della scuola. Avevamo delle leve scolastiche di circa 1 milione di persone, quindi gli anni del baby boom sostanzialmente. A quel punto il numero di insegnanti era molto cresciuto. Ora, per tendenze demografiche che sono ben note a tutti, minore natalità, in realtà ogni anno entrano circa 500.000 ragazzi a scuola, quindi diciamo la metà di quello che era sostanzialmente 30 anni fa. 30 anni fa, è anche vero che però sono utenze un po' diverse, no? Ci sono molti stranieri, insomma ci sono questa tipologie. Tra l'altro sì, sono 500.000, di cui quasi 100.000 sono immigrati o figli di immigrati, quindi che ovviamente pongono al mondo della scuola dei problemi nuovi, diversi diciamo da quelli del passato, quindi diciamo di italiani nativi, come si chiamano i demografi, siamo sui 400.000, mentre il numero di insegnanti è rimasto quello di quando ogni anno c'era 1 milione di nuovi studenti, diciamo. Quindi insomma è vero che sono tanti, ma è anche vero che oggi vengono chiamati a dei compiti un po' particolari che 30 anni fa forse non dovevano affrontare. Questo sempre per voler restare fuori dalla polemica, ma a ragion del vero bisogna dirlo, no? Sì, beh, una cosa nota, diciamo una peculiarità italiana, per esempio noi abbiamo 90.000 insegnanti di sostegno, quindi diciamo che aiutano ragazzi diversamente abili, quindi questo è un compito che la scuola italiana si è assunto, mentre in altri paesi tipicamente sono i servizi sociali, quindi sono altre funzioni. E 30 anni fa anche di bambini disabili a scuola ce n'erano pochi, no? Perché spesso si tenevano a casa, adesso esatto, grazie al cielo paese, vengono inseriti a scuola. Mm-hmm. Quindi un tempo sì, appunto non andavano a scuola, adesso credo sia una conquista sociale, si cerca di integrare. Stai ascoltando Web Radio Unica. È nata una nuova radio universitaria grazie ad Union Air, ve l'abbiamo raccontata spesso, questa iniziativa di Radio 24 che aiuta le università a far partire delle radio su web. L'ultima nata è Web Radio Unicam di Camerino. Ne parliamo con una delle caporedattrici, Claudia Trecciola. Il palinsesto è il nostro, è formato da due blocchi, uno che va in onda il martedì con replica il mercoledì, l'altro il giovedì con replica il venerdì. E all'interno di questo palinsesto troviamo programmi vari, che vanno da quelli istituzionali come il notiziario Unicam, spazio istituzioni, cioè l'appuntamento con l'informazione a carattere provinciale, l'intervista, che è una rubrica nella quale praticamente vengono presi in considerazione gli aspetti più interessanti della vita universitaria, quindi intervista a personaggi che magari realizzano particolari scoperte dal punto di vista scientifico. Quindi insomma vuole essere anche di informazione, di servizio in qualche modo, ma c'è traccia nella vostra radio del movimento che si sta avvertendo in questo periodo nelle università? Perché insomma è un periodo un po' particolare ovviamente, sì. Questo, allora la vostra radio immagino bene che non possa far finta di nulla. No, assolutamente, abbiamo fatto un apposito speciale sulla contestazione universitaria, anche perché a Camerino si è costituito il movimento No 133 Camerino, per cui diamo spazio anche alla voce soprattutto degli studenti, no, cerchiamo di essere una radio dove praticamente diamo spazio al confronto, al dialogo anche degli studenti nei confronti della didattica, nei confronti anche del governo sulle linee dell'università. Quindi è uno spazio anche per esprimere le proprie perplessità, i propri giudizi, insomma, sulla sì. politica del governo e sulla politica anche dell'Ateneo, insomma. Uno spazio democratico, vogliamo che sia questo la web radio dell'università. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo.